Violentemente sgomberato per qualche minuto, ecco Rice che ci scuserà di questa irruzione, ma come vi avevamo detto, avevamo aspettato insomma l'arrivo di un paio di ospiti per iniziare questo spazio sulla morte di Luigi Fallico, un po' insomma su tutta l'inchiesta farsa che ha creato la sua carcerazione, poi divenuta tragedia pochi giorni fa, tragedia annunciata, visto che stava male già da qualche giorno prima e che sarebbe stato dovuto almeno ricoverare. Quindi io intanto, senza rubare tempo e spazio a quello che è più importante, sì, è quel microfono lì, vi do direttamente voce, volete autopresentarvi? Sì, ciao, sono Costantino Virgilio, sono qui insieme a Manolo Morlacchi. Siamo imputati nel processo in cui era imputato anche Luigi Fallico, che è morto il 23 di maggio nel carcere di Viterbo. Io e Manolo avevamo preparato un comunicato da leggere oggi in aula che non abbiamo potuto leggere in quanto l'udienza è stata rinviata per ovvi motivi, diciamo così. Allora, lunedì mattina il nostro compagno Gigi è stato trovato morto in cella. Da giorni lamentava tutti i sintomi di un infarto, violenti dolori al petto e pressione arteriosa alle stelle. Nonostante le segnalazioni e le richieste di cure, è stato lasciato abbandonato al suo destino. Una tachipirina, un diuretico e poi di nuovo in cella da solo. I primi riscontri dell'autopsia confermano che Gigi, ormai da qualche giorno, aveva un infarto in corso. La notte in cui è morto, il cuore gli si è letteralmente spaccato in due. Questo processo ha già emesso la sua prima sentenza e purtroppo una sentenza che non prevede appelli. Gigi non è morto per cause naturali, per una fatalità. Gigi è stato ucciso. Fosse stato libero, anche indagato, ma libero non sarebbe morto. Invece Gigi ha avuto l'imprudenza di ammalarsi in carcere, un luogo incivile, medievale, un luogo dove ogni conquista dell'umanità smette di esistere. Un luogo popolato da decine di migliaia di proletari, della classe pezzente, dai dannati della terra, semplicemente dai poveri. Ogni anno sono centinaia le persone che muoiono in carcere per le violenze subite, centinaia di omicidi che sappiamo resteranno impuniti per la giustizia di questo Stato. Non potrebbe d'altronde essere altrimenti, lo Stato non può processare se stesso. Ma noi sappiamo che esiste una giustizia che va oltre le aule del tribunale e che trova la sua forza nell'eguaglianza sociale, nel progresso umano, nel superamento del capitalismo, che mostra il suo volto ogni giorno sui posti di lavoro, nei bombardamenti dei civili, nelle stragi dei migranti in fuga. A questa giustizia guardava Gigi. Era un comunista e noi sappiamo ciò che si perde quando muore un comunista. Grazie. Io volevo solo chiedervi magari se vi va di raccontare qualcosa, nel senso, dal momento in cui si è sentito male la prima volta Luigi al momento in cui è morto, ha subito, oltre all'isolamento, il carcere, a quello che è il Mamma Gialla, che comunque è un carcere particolare, almeno per quel che riguarda il Lazio, come livello di tensione e punitivo, ha subito anche una traduzione, l'udienza a Roma, e quindi di nuovo una traduzione. Ci raccontate cos'è una traduzione? A che ora ci si sveglia? Come avviene? Visto che c'era un infarto in corso, non lo so se vi va ovviamente, perché. No, l'ultima udienza prima di morire, Gigi aveva segnalato a Caterina Calia, che è il mio avvocato, che non si sentiva bene, che avvertiva dei forti dolori al petto, che aveva la pressione arteriosa fuori controllo. Però era una persona estremamente discreta, non gli piaceva, come dire, mettersi in prima pagina con i suoi problemi. E quindi spesso erano i compagni che dovevano, come dire, incitarlo a farsi vedere, a lamentarsi per i propri elementari diritti, come quello di essere curato. La traduzione significa che ci si alza presto la mattina, prestissimo, 6:30, intorno alle 6:30, vieni perquisito, subisci tutta la trafila che normalmente si subisce quando si abbandona il carcere, anche solo per poche ore. E ti viene dato un sacchetto che contiene mediamente un paio di buste di cracker, una bottiglietta d'acqua e un paio di formaggini, forse una mela quando va bene. Dopodiché si viene ammanettati, caricati su un cellulare, trasferiti nelle aule di tribunale, fai anche qua il tuo passaggio all'interno delle camere di sicurezza interne al tribunale, dove puoi passare e trascorrere anche ore. Quando finisci l'udienza, che spesso dura delle ore all'interno di queste gabbie, devi fare la stessa trafila all'indietro, e spesso, diciamo, la regola è che normalmente si rientra, visto che sei obbligato ad attendere la fine magari di altri processi con altri imputati che tornano verso il tuo stesso carcere, sei costretto ad attendere ore e ore e rientrare in cella completamente stravolto intorno alle 21, quindi con la cena che trovi poi del carcere, che trovi poi sul tavolo ormai immangiabile ovviamente. Gigi tutto questo l'ha fatto sempre, come gli altri compagni. La particolarità è che nell'ultima udienza l'ha fatta con un infarto in corso. È già stata aperta un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. I medici legali che ieri hanno fatto l'autopsia a Gigi, che hanno potuto assistere all'autopsia a Gigi, dicono che appunto il tipo di infarto è del tutto compatibile con un qualcosa lasciato, abbandonato a se stesso da giorni, con emorragie che duravano ormai da giorni. La guardia che ha aperto la cella si è quasi spaventata, rifiutata di capire quello che era davvero successo, tanto che ha chiamato in soccorso addirittura gli altri detenuti, che si sono ovviamente fiondati in cella cercando di fare il possibile, ma ormai non c'era più niente da fare perché era chiaramente ormai già morto e non c'era la possibilità di fare massaggi cardiaci o altro. E poi a Viterbo da non molto tempo è stato istituito nell'ospedale di, adesso sinceramente non ricordo il nome, un repartino, noi conosciamo qui noi romani quello del Pertini, insomma un reparto per detenuti, quindi con tutti i crismi per poter ricoverare un detenuto, che insomma sta a 20 minuti dal Mamma Gialla, quindi diciamo che è una vita che si sarebbe tranquillamente potuta salvare anche magari qualche giorno dopo il primo malore, se solo fosse stato trasferito in un reparto che esiste anche a Viterbo da pochi mesi dentro l'ospedale del... non riesco neanche a parlarne di questa storia, immagino voi. Quindi non so, se volete aggiungere qualcosa, diteci magari quando è stata rinviata l'udienza. La nuova udienza sarà il 15 giugno, ma diciamo questo è un aspetto ormai piuttosto secondario rispetto alla vicenda in se stesso. Piuttosto cercheremo di far sapere attraverso qualche canale il giorno del processo, che in questo momento non è stato ancora fissato, ma che dovrebbe svolgersi sicuramente entro sabato. Insomma. Il funerale, non so cosa ho detto. Il funerale entro sabato dovrebbe svolgersi il funerale.